È così ogni sera, da sempre. Uno spettacolo che si ripete da milioni di anni. L'azzurro che diventa nero ed il nero che si riempie di piccoli puntini luminosi che si accendono uno per volta, come se un invisibile lampionaio girasse fra le costellazioni e suscitasse quel luccichio d'argento col tocco della sua magica canna. Una fiaba dice che le stelle non sono altro che degli sportellini aperti nel cielo dagli angeli buoni, che vogliono vedere quello che succede nel mondo. Ma non è che una fiaba, naturalmente, una delle tante fiabe che si raccontano ai bimbi perché stiano buoni e facciano la nanna. Buonanotte ai bimbi del mondo, di Minoretti e Zara, edizione Tarquinia, Tortona, cantano Nilla Pizzi e il duo vocale delle sorelle Fasano. Tutto bello ancora sembra. Buonanotte in ogni casa, dove riposa chi può sereno il cuore aver. Vi culling nei lettini, visioni di bontà, di fate nei giardini, di mamme e di papà, per tutti quanti ancora, sogni d'or, sogni d'or. Buonanotte bimbi del mondo, per voi le stelle distendono nel cielo un bel. Il sol da un'ora è tramontato e il sonno vince ogni piccin, camiciole e pigiamin tolgon dai cuscin, vanno a riposare. Di ciò che avviene nel mondo inquieto monelli e bimbe nulla sa. Pensan solo se domani sempre potran ridere e fate nei giardini, di mamme e di papà, per tutti quanti ancora, sogni d'or, sogni d'or. Buonanotte, bimbi del mondo, per voi le stelle distendono nel cielo un velo. Ai bimbi del mondo.